Buongiorno ragazzacci, siete fantastici, non saprei vivere senza Manera ormai e nemmeno senza te, Milan. Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Ma nemmeno io senza te, cara ascoltatrice, nemmeno io senza voi, nemmeno senza Leonardo. Oddio, senza Leonardo Manera. Vabbè. Comunque, cari ascoltatori, buongiorno, ben ritrovati per una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan. Tre mezz'ore insieme a voi fino alle 10:30 con tutta la redazione che sparpagliata ma riunita vi saluta da Elisabetta Fusconi a Miriam Lucchetti a Lorenzo Nespoli al nostro Alpino in regia. Ci siamo carichi come sempre per raccontare tante belle cose all'800 24 00 24. Voi potete chiamarci, potete anche raggiungerci via WhatsApp, via SMS al 349 238 6666. Ricordate anche la mail 100 Milan @radio24.it. È il momento Alpino, è il momento tuo, è il momento dell'entusiasmo. Enthusiasm, enthusiasm about the future. Sorridevo poco fa a sentire da Simone Spezia la risposta sulla scuola e sul tema del quando si riapre la scuola abbiamo istituito una commissione. Beh, è stupendo, cioè proprio è la risposta migliore e più emblematica dell'Italia in questo momento. D'altronde siamo un po' in confusione tutti quanti, tutti quanti, forse a cominciare da noi, e quindi se siamo tutti in confusione è normale che siano forse in confusione anche coloro che ci guidano, ci governano pro tempore. Per esempio, l'avete visto, no? Due giorni fa erano tutti in giro in Lombardia, secondo alcuni, troppi in giro, troppo, che è una grande falsità, l'abbiamo sempre detto, una propaganda incredibile. Bastava vedere i numeri delle multe, i multati sono in alcuni casi il 2% dei fermati, il 2% dei fermati, non il 2% di tutta la popolazione, di coloro che vanno in giro, il 2% irregolari, 3%, a Roma lo 0,6%, cioè i cittadini si stanno comportando nella stragrande maggioranza benissimo, l'abbiamo detto mille volte, però ci dicono che invece no, si deve stare a casa, si deve stare a casa. Di colpo il 4 maggio la Lombardia vuole riaprire, per dire un po' la confusione. Poi vabbè, sul tema della scuola qualcosa diremo anche noi. Che dire, avete sentito, in Danimarca si ritorna a scuola, in Francia l'11 maggio si dovrebbe tornare a scuola, in Germania riaprono forse le scuole, la Spagna eccetera, l'Italia si riparla a settembre, come? Boh, le famiglie nel frattempo che fanno? Si arrangino, vedremo. C'è la commissione, c'è la commissione, come ha scritto oggi Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, mentre altrove riaprono le scuole, in Italia si apre una commissione per la riapertura delle scuole. Non credo che gli ideatori di tale squisitezza ne abbiano bisogno, ma mi azzardo ugualmente a dare suggerimenti. Se la commissione Colao schiera 17 membri, quella sulla scuola merita uno sforzo ulteriore. E la prima caratteristica di una commissione che si rispetti è di essere composta da un numero di esperti abbastanza ampio da soddisfare, oltre ai requisiti di lentezza e inconcludenza, gli appetiti dei politici che concorrono a nominarli. La ricerca di un presidente sarà la preoccupazione successiva, alleviata dalla possibilità di indicare un paio di vicepresidenti, quattro segretari, due supplenti, uno per ogni comitato, sbriciolabile in un gradevole caleidoscopio di sottocomitati. E così via. La commissione è abbastanza incredibile. Siamo entrati in questa fase di totale incertezza, in cui le regioni ognuno va per conto proprio, i comuni ognuno per conto proprio, ognuno decide delle proprie iniziative. E, per esempio, appunto in Lombardia c'è adesso questa cosa delle 4D, poi ci sono questi slogan. Io ero rimasto alla stampante 3D, adesso c'è la formula 4D. Vogliamo sentirla, Alpino? Un programma per portare alla riapertura delle attività a partire dal prossimo 4 maggio. Nel segno delle 4D: distanza tra le persone, dispositivi obbligatori, digitalizzazione con smart working obbligatorio per chi può farlo. E diagnosi. E diagnosi, le 4D. Questo era il presidente della regione Lombardia, Fontana. Temo che la gente abbia bisogno di meno slogan e più certezze. Se c'è una cosa che in questo momento la gente cerca è delle risposte chiare. Domande ce ne sono migliaia, risposte chiare e certe. E invece c'è incertezza su tutto. Su una cosa c'è certezza, su un'unica cosa, unica. Si litiga per parlare di un possibile ribaltone al governo. Sono tornati retroscena della politica, addirittura si parla di Vittorio Colao, chiamato a capo di questa task force, tra l'altro, aperta parentesi, ogni giorno sembrano lievitare, secondo oggi un giornale sono 400 gli esperti di tutte le task force messe insieme, 400 secondo il quotidiano nazionale. Comunque, l'ultimo retroscena vede Vittorio Colao chiamato a capo di questa task force, che potrebbe essere in realtà colui che scalza Conte al governo. Voi vi rendete conto? E dietro questo ci sarebbe, secondo il giornale, Di Maio che ce l'ha con Conte, vuol recuperare la leadership del Movimento 5 Stelle e quindi preparare una sorta di ribaltone di governo. Cioè, in tutte le incertezze del mondo, l'unica cosa certa è che si torna a parlare di queste cose che non interessano a nessuno, tranne che a loro. Coloro che sono interessati, i 500 politici che governano pro tempore. A nessun altro cittadino al mondo interessa questa questione. Va bene, devo, prima di salutare un ospite, lanciare anche un appello, perché li vedo anch'io girando, quando faccio qui nel giro in quartiere, sempre più rifiuti per strada. E i nuovi rifiuti sono le mascherine usa e getta che vengono buttate e i guanti monouso che la gente, invece di mettere nei cestini, lascia per terra sui marciapiedi. Per tutti coloro che fanno questo ci vuole la ricetta, caro Alpino, del nostro ascoltatore Giuseppe da Reggio Calabria. Ci vorrebbe da applicare subito in loco, se pizzicati. Ce l'abbiamo? Ci vorrebbe una bella passata di Miccio de Boe in loco. Miccio di Boe in loco, tradotto nerbate. Possiamo dargli anche il premio Giachetti a costoro, un gran pluralone se vogliamo. Avete la faccia come il culo. E chi più ne ha, chi più ne ha più ne metta, per chi butta mascherine, guanti, eccetera. Filippo Anelli, buongiorno. Filippo Anelli, grazie di essere qua, il presidente dell'Ordine dei Medici di Bari e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Ecco, questa è tutta la sigla, insomma, comunque il presidente dell'Ordine dei Medici. Presidente Anelli, le chiedo questo. Oggi sulla stampa ho letto un racconto di un medico di base che dice questo: dal 9 marzo ho fatto 113 segnalazioni di certi casi coronavirus, ne sono state inserite appena 11, di cui 2 perché le persone sono andate al pronto soccorso. Praticamente dal 9 marzo il sistema non funziona. I medici di base raccontano di un sistema che sembra quasi allo sbando alcuni. È davvero così? Dobbiamo preoccuparci? La situazione dei tamponi e della carenza dei reagenti o della riduzione del numero rispetto a quelli che servirebbero è un dato abbastanza evidente. La buona parte delle regioni ha scelto di farle e di centralizzare l'esecuzione in alcuni laboratori e il numero dei tamponi conseguentemente è limitato. L'unica diversità credo che sia quella del Veneto o forse qualche altra regione, dove invece la scelta è stata fatta in maniera totalmente diversa e i risultati sono un po' sotto gli occhi di tutti. Devo dire che questa volta il presidente Zaia ha fatto centro, insomma. Cioè, lei sta dicendo che è stata fatta una scelta diversa ed è la scelta, a suo modo di vedere, corretta, quella del Veneto. Beh sì, perché come dire, non è impensabile oggi non rilevare che il numero di tamponi fatti, la riduzione del numero delle morti e il contenimento della diffusione in Veneto abbiano funzionato. Si può fare in altra maniera in Italia? Sì, si potrebbe fare in altra maniera, cioè quella di considerare i malati sul piano clinico Covid positivi e quindi dare la possibilità ai medici e ai sindaci, ai medici di medicina generale e ai sindaci di poter determinare la quarantena in maniera obbligatoria, riducendo il numero dei contatti in maniera drammatica finché non si faranno i tamponi. Perché voi medici sapete, cioè se una persona, al di là del tampone, se una persona vi chiama e mostra i chiari sintomi del Covid, voi lo sapete, cioè voi chiedete: dovremmo registrare questa persona come positiva? Sì, perché attualmente i medici lo fanno già, voglio dire, no? Cioè se sul dato clinico impostano un sospetto diagnostico e avviano una terapia. Ora, se un cittadino oggi mostra febbre e sintomi dell'apparato respiratorio, oggi, come dire, nel 90% dei casi, nel 99% dei casi, sarà un Covid positivo. Quindi i medici dovrebbero a questo punto avere la possibilità di iniziare subito il trattamento a livello domiciliare, perché i trattamenti a livello domiciliare oggi mostrano una certa efficacia. Questo è un punto fondamentale, Presidente, no, la interrompo su questo, perché guardi che su questo tema, cioè i trattamenti a casa, si parla molto, per esempio, di questo, adesso io non sono un medico, ma lei sì, ovviamente mi correggerà, si parla dell'uso dell'eparina, del cortisone, del Plaquenil, comunque adesso io ho detto il nome della marca, ma comunque il principio attivo che è un che è un antimalarico. Sono efficaci, cioè sono queste le prescrizioni in genere che si fanno e hanno dei risultati? Allora, l'efficacia naturalmente dovrà essere valutata un po' nel tempo, in maniera, come dire, scientificamente provata. Il tempo, sì, abbiamo bisogno di tempo e abbiamo bisogno naturalmente di fare gli studi osservazionali. Quello che oggi le società scientifiche dicono è che questi hanno un'alta probabilità di essere efficaci. E quindi sono state emanate linee guida sia da parte delle società scientifiche dei generalisti, quindi dei medici di famiglia, e sia degli infettivologi, anche i farmacologi, che aggiungono ovviamente anche nella parte inizialissima della malattia l'utilizzo degli antivirali. Quindi è possibile un trattamento oggi domiciliare ed è possibile anche, secondo quelli che sono i primi risultati che vengono, come dire, riportati in maniera, ho detto, non scientificamente provata, ma insomma l'impressione è questa, che questi trattamenti funzionino e che riducano il numero dei ricoverati. Non si può dire ancora c'è una cura, però è un approccio molto incoraggiante, che consentirebbe naturalmente di sbloccare questa situazione. Qui è, come dire, un ruolo importante l'ha giocato l'AIFA, perché ha sdoganato questi farmaci per l'utilizzo domiciliare. Naturalmente, come sempre, ci siamo complicati la vita, perché ogni regione poi ha disciplinato questi farmaci in 21 maniere diverse, naturalmente una corsa sempre ad ostacoli per ottenere questi farmaci, però sostanzialmente, come dire, con la solita visione italiana del trovare una soluzione anche all'impossibile, i farmaci vengono usati, cominciano ad essere usati e i risultati cominciano a vedere. Se a vedersi. Le faccio quest'ultima domanda, Presidente Anelli. Ci sono adesso i dispositivi per tutti, cioè per tutti vuol dire per tutti i medici, perché sappiamo, ne abbiamo contati già 120, ma forse sono di più quelli morti, molti negli ospedali, ma anche medici di base. Ci sono le mascherine, ci sono le protezioni? Guardi, questo è un tema, devo dire, sconvolgente, perché penso che la richiesta che viene dal personale medico, ma anche dagli infermieri, dai tecnici di laboratorio, di radiologia e così via, no? e sembra come se chiedessimo in concessione la sicurezza sul lavoro, che invece è un diritto costituzionale. Cioè la stessa preoccupazione che c'è nel trovare la cura e nell'assicurare la cura ai cittadini, la stessa preoccupazione dovrebbe essere da parte di chi gestisce la sanità nel garantire l'integrità psicofisica di tutto il personale, sia sul luogo di lavoro sia nell'attività professionale. Questa cosa non avviene. Sembra manco che, come dire, il diritto alla sicurezza sia una concessione. Io credo che sia un attentato alla Costituzione nel momento in cui non viene attuato da chi ha il potere di poterlo fare. Sì, diciamo questo in generale, e la sicurezza sul lavoro è un principio da garantire a tutti, non è un diritto che uno deve chiedere con delle concessioni, ma è un diritto garantito in generale. Adesso a maggior ragione, e se si può dire a maggior ragione per gli operatori del settore sanitario, è incredibile che non sia così, ma vale per tutti in realtà, anche per tutti coloro che vanno ancora a lavorare e che vanno a lavorare tutti i giorni e che sono tantissimi. Io intanto la ringrazio, Filippo Anelli, Presidente dell'Ordine dei Medici, per essere stato con noi e, voglio saltare sull'altro tema. Voglio accogliere il mio ospite con questo messaggio di un ascoltatore. In Lombardia 30.000 morti stimati, ma perché addirittura stimati, insomma, e i giornalisti pensano alla scuola. Vergognatevi, e si vergogna allora con me anche. Per empatia, se non altro, il presidente dei presidi del Lazio, Mario Rusconi. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Vergogna, ecco, visto che penserà alla scuola, immagino, a capire anche lei, Rusconi, cosa fare la scuola. Cioè, come se la scuola fosse, certo, i morti prima di tutto, ma come se la scuola fosse meno importante, cioè, è il futuro dei nostri figli. Oggi leggevo che, secondo un sondaggio, i millennials, cioè quelli nati a cavallo del 2000, sondaggio sulla stampa, praticamente vedono nero il futuro sul fronte lavorativo, sul fronte professionale, perché d'altronde non vanno a scuola adesso non sanno quando e come la scuola ripartirà. Lei l'ha capito intanto? Poi le volevo chiedere un tema specifico, ma l'ha capita questa cosa della scuola, quando riparte, se riparte? Perché in Danimarca oggi partono, per dire. Sì, un'affermazione relativamente a quella bizzarra proposta di questo personaggio. E per fare in modo che in futuro ci siano meno morti bisogna avere più medici bravi e quindi più scuole che funzionino bene, insomma, e non collegare le due cose vuol dire che c'è un cortocircuito cerebrale di questa persona. Ma al di là di questo, la scuola probabilmente riaprirà a settembre. Il problema, probabilmente, non credo proprio il 18 di maggio, ma è probabilmente anche su settembre. Perché sarà necessario che ci sia tutta quella profilassi igienica, ad esempio le mascherine, il distanziamento e così via, e questa è, da questo punto di vista la vedo molto dura. Teniamo conto che scuola vogliono dire 9 milioni di persone, 8 milioni di studenti circa e 1 milione degli operatori, presidi, bidelli, impiegati, insegnanti eccetera. Ora tutti i giorni bisognerebbe avere 9 milioni di mascherine, se appunto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice, anche il nostro governo. Però una cosa, mi scusi, di questo Rusconi, tipo. È abbastanza incredibile. Allora, magari in Danimarca sono pazzi, magari Macron è un attentatore alla salute dei francesi, non penso, magari in Germania pure la Merkel, in Spagna, noi forse riapriamo, ma non si sa, a settembre. Ma scusi, uno stato. No, ma lo so, però. Di quanto tempo ha bisogno per. Questo non dipende da me, ma se io faccio un collegamento che bisogna mantenere tutte quelle misure igieniche, vale a dire mascherine, disinfezione, distanza di 1 metro, eccetera, dico che bisogna fare in modo che a settembre realisticamente ci siano 9 milioni di mascherine e soprattutto che si possano distanziare i ragazzi. Ho sentito anche prima nella vostra trasmissione il fatto di fare il doppio turno, ma il doppio turno permettetemi, non risolve assolutamente nulla, perché il doppio turno, io posso prendere una classe di 30 studenti, 14 rimando la mattina e 14 il pomeriggio, ma l'insegnante è unico. Allora o raddoppio gli insegnanti, cosa che è impossibile, oppure non so, lo divido in due, insomma. E quindi anche quando si dicono certe cose, bisogna oppure si fa di un oppure si fa un discorso agli insegnanti, coi sindacati, li si paga di più, cosa che meriterebbero già a prescindere, anche i presidi, per carità, e in una situazione di emergenza si fa così per 6 mesi, un anno, però 18 ore che diventano 36 settimane la vedo lunga. In ogni modo anche questo potrebbe essere una proposta, tenendo però presente che anche l'età media degli insegnanti è molto ampia. Cioè dobbiamo, l'appello che noi facciamo come associazione dei presidi è, diciamo al governo, alle istituzioni, anche ai sindacati, utilizzate metà aprile, maggio, giugno, luglio, agosto per fare in modo di trovare, non fare solamente commissioni pletoriche come dice giustamente Gramellini, ma per fare in modo di trovare delle soluzioni auspicabili, andando a vedere cosa succede in Danimarca, cosa succede in Francia, cioè cerchiamo di prendere anche il meglio dagli stati stranieri, perché appunto, adesso dire che gli studenti potranno andare probabilmente solo ad ottobre, ma mantenendo tutte le condizioni di profilassi che vengono sbandierate tutti i giorni sui giornali e dei media è un non senso, perché non abbiamo scuole che permettono la distanza di 1,5 metri di un ragazzo dall'altro. Allora, devono essere... Prego. Sì, no, è interessante questa, che io volevo introdurre un altro tema, ma anche perché è arrivato come un'irruzione, un messaggio di Elena, un'ascoltatrice, e non è arrivato, non lo so, è arrivato a caso, ma noi l'avevamo chiamata anche su questo. Elena chiede: cosa si sa degli insegnanti assenti da lungo tempo, per vari motivi, veri o falsi che siano, guariti e rientrati in servizio perché stanno a casa? Guardate, allora, che questa mi sembra una segnalazione che alcuni rappresentanti dei presidi hanno fatto, dicendo c'erano magari insegnanti in malattia e quindi a casa. Stranamente questo numero di malattie, adesso che c'è la didattica a distanza, sono diminuite. È così, si può avere un riscontro, Rusconi? Guardi, io diciamo manovro diverse chat per circa 1 migliaio di presidi, è una disgrazia assoluta, però insomma c'è anche l'invasione delle cavallette, ragazzi, oltre cioè, questa. Voi vi alimentate delle chat con 20 mamme, papà, e lui ne ha 1000, va bene, auguri. Sì, appunto, che cosa io dicono? I miei collaboratori, diversi colleghi presidi ci hanno detto proprio di questo, non è molto diffusa, perché in questo momento bisogna spezzare una lancia a favore degli insegnanti, stanno lavorando meravigliosamente. La maggior parte, certo ci sono sempre i malmostosi e ci sono i furbetti del quartierino, infatti non solo attenzione per insegnanti, ma in questo caso anche impiegati, bidelli eccetera, che magari avevano delle provvidenze per rimanere a casa e che all'improvviso sono guariti. Non è molto diffuso, ma è un fenomeno diciamo abbastanza ragguardevole e soprattutto diciamo non molto decoroso, insomma la maggior parte degli insegnanti. Ma perché così recuperano il 100% dello stipendio? Esatto, se per esempio avevo preso o delle ferie particolari o un'aspettativa per il bambino, così via, in questo periodo in cui non sono costretto ad andare a scuola come impiegato, come bidello, appunto torno indietro e quindi quel periodo magari lo adopererò in altri momenti. Non è, ripeto, molto diffuso, certo fa scalpore in un momento in cui muoiono, io ci tengo a dire, tanti sacerdoti, tanti medici, tanti infermieri, è morto persino un preside a Venezia giorni fa, un nostro giovane e bravissimo collega. Quindi succedono queste cose che vanno assolutamente stigmatizzate, ma vi assicuro, proprio nelle chat mi diceva un'insegnante amica, dice col fatto che abbiamo questo rapporto ormai diretto non c'è più orario con i miei studenti, mi chiamano il sabato pomeriggio, la domenica, e ti pare che posso dire di no? Ecco, questo lo vedo molto bello, un atto di generosità che viene fatto anche dagli insegnanti, che si stanno comportando probabilmente molto meglio spesso di chi li rappresenta, insomma, intendendo dire organizzazioni magari sindacali che chiedono la didattica a distanza perché è contro il contratto di lavoro. È successo anche questo, purtroppo, piccole organizzazioni sindacali che hanno detto queste cose veramente invereconde. Sì, va bene. Io intanto, Mario Rusconi, la ringrazio. Chiaramente risposte su quando e come si ripartirà, cari cittadini italiani, non le avrete qui, non le può dare Rusconi, non le posso dare io. Le scopriremo solo vivendo. L'unica certezza, come ho detto, sono i litigi della politica. Quelli troverete tanti retroscena, sono ricomparsi dopo che erano scomparsi un pochettino, stanno riaffiorando come dei fiumi carsici, erano scomparsi ma adesso stanno stanno emergendo in superficie. Quella è l'unica cosa certa, tutto il resto si naviga a vista. Andiamo un attimo in pubblicità e poi Vestagliona Manera è con noi. Uno, nessuno, 100 Milan. Carolino, la fase 3 sarà 4F, fame, freddo, fumo e fastidio. Ciao! Quella delle 4D è l'ennesima stronzata. Mila, ma guardate che siete voi giornalisti che raccontate che siamo tutti in giro, eh? Non è qualcun altro, fate un po' ammenda di quello che fate. Ma è possibile che lei, signor Milan, fa questa trasmissione e non dice mai niente di concreto? Cioè, ma che servizio fate? Io non lo so, proprio non lo so. Lei sembra di vivere proprio in un altro mondo. Eccomi qua, vivo nella mia torre Burnea. Turris e Burnea. Ciao Leonardo, buongiorno. Aspetta che c'è una situazione che devo chiarire. Angelica, hai fatto la verifica? Sì. E di che materia era? Grammatica. Come pensi che sia andata? Bene. Bene, vabbè, questo lo scopriremo, anche questo, di questo non c'è grande certezza, anche questo è nell'incertezza, lo scopriremo vivendo, Leonardo? Bene, è andata bene. Io ieri stavo facendo i compiti di inglese con mio figlio, sai che non ce l'ho fatta? Non ce l'ho fatta, cioè, ma sono scusa, due ma cose Beniamino che... fa la quinta elementare. Sì, fa la quinta elementare, ma io non ce l'ho fatta perché cioè, dai, dici un esercizio, tipo una cosa che ti ricordi. Sono tipo parole crociate e ecco. C'è un'immagine, ci sono alcune immagini alle quali bisogna dare una definizione. Sì, per esempio, certo. C'è un attraversamento pedonale con una freccia a sinistra. Allora, io le ho provate tutte, sono 12 lettere, ma niente, non c'è strisce pedonali, eccetera, non ce n'è una che rientra. Quindi c'è questa striscia pedonale. No, guarda, le ho provate fosse tutte. Turning left. Vediamo. No. Un po'. Vediamo. Turning. Aspetta, c'è una sfida Lucchetti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le hai contate, effettivamente. Sì. Turning left. Io avrei detto così, sono 12, 11 sono 12 lettere, è irrisolvibile. Chiamiamo quindi... John Peter Sloan, non lo so, cosa dobbiamo fare? Sfida Lucchetti, John Peter Sloan, aiutateci, cari insegnanti madrelingua inglese. Aspetta, ridillo bene, allora sono 12 lettere. Sì, adesso dovrei andare a recuperare il libro per essere sicuro. Comunque vai a recuperare il libro per essere... Adesso vado a recuperare il libro per essere sicuro, comunque sono... Poi, intanto che recupero il libro, volevo anche dire all'ascoltatore che ha detto che non si dice mai niente di concreto. Non è vero. Prima col presidente dell'Ordine dei Medici ha detto, lui ha confermato, che le cure a domicilio danno buoni risultati, che i protocolli che adesso fanno i medici. Questa è una notizia concreta importante, secondo me. Importante, anche sì, ottimo. Sì, vabbè. Sì. Ti ringrazio per avere questo tentativo bieco di salvarmi in corner, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allora, sono 12 lettere, cioè... Un attraversamento pedonale con una freccia gialla che indica a sinistra, la terza lettera è una D che potrebbe presupporre... E la possiamo aiutare quarta, Beniamino quinta. E anche Leonardo, la D, 12 lettere, aspetta, Rod, la terza. Comunque 12 lettere, la terza è una D, per me è irrisolvibile, poi se qualcuno... Ho capito, descrivi meglio allora cos'è l'attraversamento pedonale. È un attraversamento pedonale e sopra le strisce... Pedestrian! Sì, lo so, sì, grazie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ne mancano sì, due certo. Però. Ne mancano due, c'ero arrivato anch'io a pedestrian, ma sono quelle due ulteriori che non mi tornano. È irrisolvibile. Accidenti, ragazzi. Vabbè. Quindi io dichiaro ufficialmente che non so fare left. I compiti. Attenzione, no, cross, la terza è una D. Ma sei sicuro che la terza? Crossing left l'ho letto da un ascoltatore che ringrazio, come walking cross. Però la terza è una D, ragazzi. Non lo sapevano gli ascoltatori. La terza è una D. Sfida Luchetti. Intanto fammi salutare Graziella Barchi, che è titolare della nuova Neon Group 2. Buongiorno, Graziella Barchi. Buongiorno. Allora, grazie di essere qui. Voi siete l'azienda che è finita su tutti i giornali per le costruzioni, diciamo così, i box in plexiglass dentro i quali dovremmo stare in estate sulle spiagge, esatto. Come proposto. Devo dire che io, quando l'ho detto ieri, ho detto no, cioè, piuttosto che farmi rinchiudere in una gabbia di plexiglass non vado in spiaggia, cioè, sinceramente. Però ci spieghi come mai avete ideato questa, cioè, noi, il motivo lo sappiamo, insomma. Esatto, noi stiamo lavorando molto per il Covid-19, tra paratie, mascherine, poi ci è venuta anche questa idea, questo progetto, e l'abbiamo pubblicizzato, e da questo è venuto fuori questo scalpore, perché abbiamo già anche, diciamo, abbastanza informazioni, che la gente è molto negativa, però c'è anche quella positiva, che ci stanno chiedendo veramente tante informazioni. Capisco, sì, che il progetto può essere un po' strano, perché pensare di andare in spiaggia all'aperto, essere dentro una gabbia, però dobbiamo, visto che lo Stato ci mette abbastanza attenzione che fino a settembre-ottobre non siamo liberi della nostra persona, è una protezione maggiore per poter andare in spiaggia. Lei dice, piuttosto che rinunciare alla spiaggia in questa situazione di emergenza, andate in spiaggia, noi vi proponiamo dei box che non sono delle gabbie, però effettivamente un pochino lo sembrano. Questo le posso dare ragione, che da disegno potrebbero sembrare delle gabbie, però è una soluzione da poter essere nello stesso liberi su una spiaggia e nello stesso tempo distaccati dalle altre persone. Sì, perché devo dire che è una soluzione. Leonardo, non so tu cosa ne pensi. Ho visto che molti rappresentanti su questo. Mi chiedevo se lei, quando l'ha immaginata, l'ha buttata lì un po' appunto come una buttata, o pensava che avrebbe avuto il seguito che poi ha avuto. Allora, devo essere sincera, noi l'abbiamo buttata in mezzo a tutte le altre nostre tipologie di professioni che stiamo facendo. Non pensavamo di fare tutto questo scalpore, e questo interessa da tante persone come te. C'è anche tanta negatività, che questo lo ammetto, ma c'è anche tanto interesse. No, ma per carità, devo dire una cosa, cioè, adesso non è che si può buttare la croce addosso degli imprenditori che hanno avuto un'idea, può piacere, può non piacere, è sicuramente un'idea che può così far storcere il naso, perché uno dice, se però l'alternativa è le spiagge devono rimanere chiuse, ma non lo sappiamo, perché viviamo nell'estrema incertezza anche per quel che riguarda la stagione estiva, lo scopriremo vivendo, quando si saprà anche della verifica di mia figlia, scopriremo forse anche questa cosa. Nell'attesa, ha detto, noi proviamo a lanciare questa idea. Sì, devo dire che i rappresentanti di stabilimenti balneari, per la maggior parte, ho visto reazioni un po' sdegnate, no? Come dire, ma come, la spiaggia è simbolo di libertà, di aria fresca, di aria, e noi vi mettiamo come in uno zoo, diciamo, all'interno di box. Esatto, l'effetto potrebbe essere quello, che sembra veramente quello anche io dal primo impatto, però piuttosto che evitare di avere veramente, di non poter andare in spiaggia, abbiamo pensato a una soluzione che sicuramente non sarà ottimale, però essendo sopra un vaporizzatore, diciamo, è una cosa anche abbastanza carina. Ci sono dei box in tela, e questi sono box in plexiglass, che proteggono di più per questo Covid-19. Ma le che vada nelle spiagge libere, ci si potrà portare il box doccia da casa? Attento, Malera, perché poi qualcuno ti ascolta e poi ti ruba l'idea, la brevetta. Qualcuno della task force, di qualche task force, dice sì, facciamo una task force. Scusi, ma se qualcuno ci vuole portare il box doccia da casa, lo potrà fare le spiagge libere, ma io ho il dubbio che le spiagge libere, mi scusi se mi permetto, che le spiagge libere saranno chiuse. perché se non ci danno la libertà di andare, di essere liberi, come siamo in un paese democratico, purtroppo ci hanno costretto, e per fortuna, perché sennò c'è questa pandemia esagerata, vedrà che se non possiamo andare in una spiaggia attrezzata, le spiagge libere secondo me le chiudono. Certo, comunque, che poi vietare una spiaggia libera è un po' un ossimoro, comunque sì, capisco che... Ma d'altronde ci hanno limitato le libertà questo purtroppo, in generale. Allora, purtroppo ci hanno limitato a uscire da casa nostra, vedrà che ci hanno limitato ad andare nei parchi, veramente questa pandemia procede, che spero proprio di no, vedrà che chiuderanno anche le spiagge libere. Temo di sì. Allora, però ci sarà una task force, vedremo con una task force che cosa sarà deciso, lo dico con ironia. Esatto, comunque io con il nostro, la mia azienda, tutto il mio staff, con il nostro progetto, non pensavamo di creare tutto questo putiferio, perché era un progetto. Mai fatti. È comunque un modo per rimanere sul mercato. Io la devo fermare e la devo ringraziare, Graziella Barchi. Staremo a vedere, titolare della nuova Neon Group 2, che fa questi box in plexiglass. Ma tra l'altro, tra poco sentiremo, se ho capito bene, anche Leonardo su questo. Leonardo, hai scatenato come solito il pandemonio, perché adesso tutti dicono che Zebra. Allora, ricordiamo che sta cercando di risolvere un problema di suo figlio, quinta elementare di inglese, cruciverba e crosswords. Dunque, c'è un attraversamento pedonale con una freccia a sinistra e tutti ti dicono, sono 12 lettere, la 12 terza lettere. È la D di Domodossola, ma in realtà tutti dicono che hai sbagliato quella D, che è zebra crossing, zebra passage, oppure un altro dice la prima parola deve essere pedestrian, sicuramente tu, Mattia, hai una soluzione per Leonardo Manetti? Però pedestrian sono 10, c'è anche Mattia, magari lui sa qualcosa. Poi c'è walking cross, la D è sbagliata, Cristina scrive così, walking cross, oppure c'è qualcuno, turn to the left, Virginia, vediamo, turn to the left, però la seconda, la terza, una R, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sono 13, sono 13 lettere, Virginia, turn to the left. È risolvibile, dai. È risolvibile. Tu sei stato troppo buono Lucchetti prima. Lucchetti è svenuta, è scomparsa, si è messa in malattia. No, in realtà sfida Lucchetti suggerisce, se non ci sta pedestrian crossing, eterna. Pedestrian CR. Cosa vuol dire CR? Per crossing. Proverò. Sono 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Forse Miriam Lucchetti l'ha sfangata anche stavolta. Pedestrian Ma CR. Ma mi sembra troppo evoluto per un elementare, per una quinta elementare, mettere già l'abbreviazione CR. Non credo, boccio l'ipotesi Lucchetti. Bocci Lucchetti, vabbè, bocciato. Andiamo a sentire il traffico. Promo 24. La casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato delle intermediazioni immobiliari in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie, traslochi, siano inclusi nelle prime attività che potranno tornare operative dalla fase 2, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di Covid-19. La casa degli italiani è da sempre nel cuore di Remax. 1, nessuno, 100 Milan. Allora, cari ascoltatori, adesso stiamo entrando nella fantasia pedestrian SX. No, non credo che valga. Pedestrian Go, Piero, non credo. Anch'io ho pensato pedestrian Go, così sembrava una cosa pittoresca. Allora, attenzione, c'è un'ascoltatrice su Facebook che con forse un tocco di genio

ricordo. In ogni caso, cari ascoltatori, allora, le stiamo provando tutte per aiutare Leonardo Manera, ma attenzione, perché ce n'è una che forse le batte. Vediamo, tutte. Vediamo, potrebbe essere questa. Prendo il libro. Sì, Sidewalk Left. Sidewalk Left. No, la terza è una D. Sidewalk Left. Sì, ci sta. Ci sta. Sì. Ci sta. Sì. Ci sta. Ci sono altre lettere in realtà che andrebbero. No. Pedestrian? Ma tu sei sicuro che questa D sia a posto? Mi vuoi dire questa D? Perché ci stiamo accanendo, ma questa D da dove nasce? Ci vuoi dire che cavolo, allora, di vocabolo hai messo, visto che è una cruciverba? Allora, ci sono, nel cruciverba ci sono anche alcune casette, sì. Ce ne sono alcune una di fronte all'altra. Vediamo, no, perché vicine. Adesso lo sbugiardiamo in diretta, va bene, sì. Allora, dove ci sono le due casette, una di fronte all'altra, la definizione è opposite, cioè una di fronte all'altra. Sì, dove, certo, ci sono le due casette, una accanto all'altra, io ho messo near, cioè vicine. Dove ci sono le due casette attaccate, sì, le due casette, sì, attaccate, io ho messo united, unite. Quella è la D finale. Ok, sono unite, united. Sì. Non lo so, può essere che sia giusto, non mi suona. Poi non c'è una casetta di fronte, c'è una casetta dietro l'altra e io ho messo behind, dietro. E poi, sì, ci sono tre casette, una accanto all'altra, con una freccia rossa che indica la casetta centrale, e io lì non ho saputo dare la definizione. Vabbè, insomma, vabbè. Quindi sono, è comunque due complicatissimo. Dai. Sono due, sì, sono due le definizioni. Scusami, che non ma tu devi scegliere tra una serie di parole date, quindi che no, poi niente, scegli. No, cioè, e questa, United, sono difficili. Per... United non era data, perché no, United. Devi... Anche a me non suona tanto bene. Non suona benissimo. Anche tu hai dei dubbi, eh. Anche sì, tu, sì, hai dei dubbi. Ma non ammettilo. Potevo, almeno qualcuno la dovevo dare, qualche definizione, almeno qualcuno dovevo fare, cioè, per non fare una figura barbina. Proprio, sì. Sì. Non voleva fare una figuraccia barbina e ha messo United. Ma io credo che questo United sia, come dire, come direbbe nel film di Fantozzi sul film della corazzata Potionkin. Credo che sia una definizione un po' così abborracciata per cercare di dire, dai Beniamino, questa la sapevo, United, ma mi sembra un po' esagerata. Va bene, dai, che dobbiamo fare? Dobbiamo andare al giornale radio, io credo, c'è una sigla che cresce, che monta e che ci ricorda, quindi, che la seconda mezz'ora di Uno Nessuno Centomila è finita. Io nel frattempo devo andare a risolvere un problema tecnologico per un compito di Mattia in questi 5 minuti. Cerco di farcela, non è detto che ce la faccia, e se non ce la faccio arrivo un po' più tardi, eh? No, scherzo, no, ci troviamo dopo il giornale radio. Uno, nessuno, 100 Milan. Già per affittare un ombrellone, due lettini d'estate, bisogna fare un prestito, figuriamoci se poi ci devono mettere il box, bisogna fare il mutuo. Secondo me Manera non è inglese, è sbagliato lingua, è giamaicano quello lì. Ciao. Eccoci qui, cari ascoltatori, la terza mezz'ora di Uno Nessuno 100 Milan. C'è un problema, Leonardo Manera, un problema che vorrei che riepilogassi per gli ascoltatori, anche perché adesso avremo un aiuto fondamentale. Allora, rispiega bene. Allora, rispiega sono dei bene. Compiti che deve fare mio figlio, io cercavo di, così, di dargli una mano, di farli insieme a lui, ma c'è una definizione che non riesco a trovare, non me la inglese, spiego. Stiamo parlando inglese. Di inglese, vai. È tipo un parole crossword. Esatto, bisogna dare la definizione a un'immagine. L'immagine è un'immagine di strisce pedonali con una freccia sopra le strisce che indica a sinistra, e sono 12 lettere. 12 lettere. La terza forse dovrebbe, forse è una D. D come United. Dario. Perché secondo, vabbè, ma adesso John Peter Sloan, buongiorno John Peter Sloan. Good morning, how are you? Good morning, very well, thanks. Allora, c'è un grave problema, c'è Leonardo Manera che sta facendo una figuraccia con Beniamino. Sì. Allora, okay. Hai capito la descrizione di questo? No, allora, ci hanno suggerito di tutto, sidewalk left, pedestrian cross, ma è troppo lunga. Cosa potrebbe essere una striscia pedonale con una freccia che dice a sinistra? È stranissimo sta cosa. No, infatti ma è vero. Cioè, scusami un attimo, cioè, perché c'è la freccia lì? Non ho mai visto una freccia. Ma non lo so. No, ma è un'immagine alla quale bisogna dare una definizione. C'è le strisce pedonali e sopra tutte le strisce una freccia gialla che indica a sinistra. E bisogna dare una definizione a questa immagine. Potrebbe essere sidewalk left? No, troppo. Hai detto 9 lettere. 12, no, 12. Sono 12, 12. Ah, 12. Ah, minchia, ok, aspetta. No, va bene. No, non è che mi ha migliorato molte le cose. 12. Allora, pedestrian sono 9, 3, 6, 10. Sì, sono 10. Pedestrian sono 10. Ne mancano 2. Il problema è che, cioè, io insegno inglese proprio perché sono negato al matematica, cioè devo fare i conti. Allora, allora in Inghilterra, the left give way, no? Ok, 12. Turning, no? In America direbbero... Ma scusa, il passaggio pedonale, come lo, in nella maniera più chiara, zebra crossing, come lo, zebra come pedestrian crossing, zebra crossing. Guarda che forse allora la terza è una B, no, perché c'è quest'altro problema, Peter, che lui, Leonardo, dice che la terza lettera è una D, perché spiega a John Peter Sloan cos'è perché allora è una bisogna D, dare perché... anche delle definizioni a delle casette, per esempio due casette, una di fronte all'altra, abbiamo messo opposite. Poi due casette vicine abbiamo messo near, due casette una in mezzo alle altre abbiamo messo between, e poi ci sono due casette attaccate e io ho suggerito united. Ma che scuola fa tuo figlio, Leonardo? United, quinta elementare, ma united è giusto, united? Sì, united per dire cosa? Che sono attaccate, unite. Due casette attaccate, unite. Joined. Quanti joined. Lettere? Adesso non vorrei monopolizzare la trasmissione. Sei lettere. No, beh, joined. J-O-I-N-E-D. ID. Quindi ha ragione. Quindi la D è la terza lettera adesso delle 12 del passaggio. Del passaggio pedonale. Quindi la sì, D, esatto. Perché se è joined, finisce per D, okay. e va a incrociare, è incredibile, sì, sembra Antonella Elia, vi ricordate Antonella Elia? Quindi, ragazzi, è un compito di quinta elementare, cioè io lo trovo quella definizione irrisolvibile per me. No, attenzione, io voglio conoscere l'insegnante che ha dato questo compito, io lo devo conoscere prima di morire. C'è anche questa soluzione, vediamo cosa dice John Peter Sloan, pede crossing. Pede crossing esiste come abbreviazione di pedestrian. Pede cross. Sai che io sapevo che prima o poi voi due mi rovinavate la carriera. Niente, non ce la facciamo. No, se no c'è questa sidewalk left, perché c'è la freccia allora sinistra. Allora americano. È una proposta, Perché sidewalk comunque, è americano. Sidewalk è il marciapiedi. Perché in inglese marciapiedi in inglese è pavement, tipo pavimento. Certo, pavement. Certo, okay. Pavement. Allora, stiamo parlando americano, perfetto. Cos'era la domanda? Io direi che domani do la soluzione. Senti, facciamo una cosa, John Peter Sloan, facciamo prendere 4 a Beniamino, il figlio di Manera, facciamogli passare. No, comunque non potrà dire che non ci ha provato in tutti i modi. Abbiamo chiamato anche John. No, ma fatemi sapere, adesso sono curioso anch'io. Senti tu una cosa, no, sì certo, domani ti mandiamo la soluzione. Okay, ti chiedo questo, John Peter, perché noi stiamo parlando del fatto che in Italia non si sa neanche quando riaprono le scuole, anche tu hai tante scuole, ricordiamo, insegni inglese, si capisce qualcosa di quello che sarà il nostro futuro in Italia, perché in Danimarca ha riaperto le scuole stamattina, per dire. Sì, lo so, però cioè, vabbè, io lo so, ho visto che in Inghilterra stanno parlando di che tutto tornerà, diciamo, alla normalità in 2022, cioè tra un anno e mezzo stanno parlando di vabbè, io ti dico la verità, io c'ho un grandi paura che quando si torna alla normalità tutti ci sarà la seconda onda e tutto quello che stiamo facendo andrà nel water. Quindi io non ho fretta di tornare alla normalità. Cioè, normalità, sarà normalità, ci sarà un mondo tutto nuovo quando finisce, no? Sì, sarà una normalità che non sarà più quella di prima. Però certo, nel 2022 è abbastanza incredibile. Ogni tanto lo diceva in maniera come battuta, ma allora è vero, 2022. Ma è vero. Guarda, io mi stavo anche abituando a questo lockdown. Finché mi avete chiamato con questo crocevverbo, sì, io stavo benissimo. Tanto aveva la birra, era a posto. Allora, John Peter Sloan, quello che possiamo fare è che domani ti mandiamo la soluzione, ecco, perché grazie, siamo anche ragazzi, noi tutti disperati. Grazie per essere stato con noi. Sentiamo Fausto. Ciao, da Napoli. John. Incredibile sta cosa. Effettivamente io non so se dormirò su questa cruciverba. Fausto, buongiorno. Buongiorno Milan, buongiorno Manera. È un piacere parlare con voi. Eccoci. Niente, io volevo tornare sulla signora che ha chiamato prima, l'imprenditrice dei box in plexiglass. Sì. E dire è la mia. Io penso che la signora sia un amante della montagna a questo punto. Penso che in spiaggia o non è mai andata, oppure lascia un attimo basita questa sua proposta. Al di là dell'arguto pezzo di Manera che sollevava tante problematiche, c'è una problematica di fondo che forse molti trascurano. Andare in spiaggia, una delle prime cose che si chiede, si può avere un posto in prima fila, ma non perché c'è la pigrizia di raggiungere l'acqua e poi tornare, ma perché si gode di una cosa che si chiama brezza marina, un venticello che tira dal mare e ti rinfresca. Già se vai in terza fila, quarta fila, questo viene attutito dagli ombrelloni, dalle sdraio, dai bambini, dai materassini e da tutto il resto. Immaginati a chiuderti in quattro impenetrabili pareti di plexiglass. È meglio di mettersi in un microonde a questo punto. Portiamoci il microonde e mettiamoci tutti quanti dentro. Questa era la cosa mia. Che ma è chiaro, Fausto, la questione adesso, il microonde è un'esagerazione, ma posso capire. Anch'io, quando ho visto questa proposta, sono veramente sobbalzato sulla sedia a dire, ma dai, cioè, mi vado. Ma poi com'è che c'è una porticina? Scusate, esco a prendere una boccata d'aria e vai lungo... bisogna capire se c'è la porticina oppure se sono aperti dal lato mare, da una parte, sì. Dal lato mare sono aperti. E beh, ma allora se sono aperti c'è il rischio, boh, non lo so. Dai, andiamo a sentire il traffico. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere, significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfone? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfone.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfone.com/promo. 1. Nessuno. 100 Milan. Oh, when I woke up tonight, I said, Allora, siamo qui alle 10:18 minuti con il maestro della pizza che torna con noi, Gino Sorbillo. Buongiorno, buongiorno chef, eccolo qua. Allora, Gino Sorbillo, che ha pizzerie Sorbillo in tutto il mondo. Faccio una domanda, indovinate un po' dove è stato costretto subito a chiudere. Ecco, la risposta la lascio a Gino Sorbillo. A Napoli, scusami, no, pensavo lo stessi dicendo tu, no, in effetti in Campania, no. Ma io sono stato, voglio precisare questa cosa, lieto, contento pure di aver chiuso, abbiamo anche chiuso anticipatamente, abbiamo spesso noi fatto degli appelli anche attraverso i social, invitando gli altri commercianti a fare lo stesso, a eseguire diciamo le indicazioni che ci sono state date dalle istituzioni, dalle autorità e dal nostro caro governatore De Luca. Abbiamo quindi dimostrato di attenerci, perché era giusto così, però adesso chiederemo diciamo soltanto un piccolo spiraglio, una piccola apertura, perché veramente il mondo della ristorazione, come ovviamente tutto il mondo in generale, comunque praticamente messo in ginocchio, e così con questi fitti pure da pagare, con tutto questo personale fermo, troppo tempo non possiamo restare fermi. Eh sì. Per esempio a Tokyo, cioè nel mondo, dove avete le pizzerie? A New York, sì. Come funziona? Tutte chiuse tranne locale al centro di Tokyo, che comunque continua, sempre comunque con delle disposizioni che vanno rispettate, però paradossalmente il locale poi più vicino alla Cina, neanche 3.000 km di distanza, è rimasto sempre aperto, quindi per noi sempre è una speranza, come dire, di riprendere quanto prima, ma non sarà facile, perché ci aspetteranno mesi tristi, mesi bui, mesi molto molto difficili, però questo forno acceso al centro di Tokyo, a migliaia di chilometri da Napoli, è una bella speranza. Effettivamente un po' sì. Tu, Leonardo, hai una curiosità, insomma, su ho provato cosa. Anch'io questi giorni a fare la pizza come tutti. Devo dire che non sono riuscito a farla lievitare, mi è venuta secchissima. Seguito allora l'altra volta che ha fatto la lezione, cioè, dove aveva sbagliato. Non avevo il lievito, ho messo il bicarbonato, che va bene lo stesso, no? È comunque un agente lievitante, però il lievito di birra, anche se lo so, se ne trova poco in giro, perché è andato a ruba, così come i sacchetti di farina, che forse c'è un massimo di 3 sacchetti alla volta, e mentre per il lievito 2 cubetti, che poi non è poco, perché un cubetto è 25 grammi, 50 grammi, si possono fare centinaia di pizze, però in effetti non è tanto oramai facile trovarlo. Quanto bicarbonato bisogna usare per una pizza? Ma guarda, diciamo in mezzo litro d'acqua dovresti mettere un cucchiaino di bicarbonato, non so, su 5-6 grammi, non so tu quanto ne hai messo, però... Avevo messo 2 parti di farina e 1 parte di bicarbonato, quindi anche tanto. Se esageri hai il risultato inverso, hai capito? Pure con il lievito, se tu metti, perché a volte le persone confondono un grammo con un cubetto, sai? Allora se mettono 25 grammi, tanto che il peso del cubetto, in un chilo di farina, non ti capisci niente, cioè impazzisce l'impasto. Un disastro. Leonardo Manera bocciatissimo. No, ma come si potrebbe ripartire? Per esempio, le consegne a domicilio, no? Questa è uno dei punti sui quali si può dire fateci almeno fare le consegne a domicilio. Ma noi perché sempre umilmente, cortesemente, di poterci riaprire le consegne a domicilio, che in Campania sono sempre, non si sono fermate per i generi più diversi tra di loro. Cioè le grandi colosse della distribuzione hanno continuato a distribuire, a mandare i fattorini a casa delle persone. Pure a me è capitato di ordinare un cavalletto del cellulare, una sedia da sole, voglio dire, di cui potevo farne tranquillamente a meno. Perché un pasto caldo che terrebbe le persone incollate a casa, che spesso scendono in continuazione per comprare cose, ma a volte anche per fare 2 passi, così, e anche durante nell'arco della stessa giornata, perché non potrebbe essere consegnato, o dovrebbe essere poco sicuro, visto che anche le panetterie perché in Campania è presente De Luca, tu hai detto, insomma, il nostro presidente, cioè De Luca è stato chiaro, no? L'ha detto sulle pastiere, fatevele a casa, ma non per i panettieri, che siamo quasi la stessa categoria, però dico, hanno continuato e fanno pizze, cioè che però vengono vendute fredde, sì, durante l'arco della giornata e sono tenute nelle vetrine che vengono aperte una continuazione, nelle panetterie che comunque sono affollate di persone che entrano ed escono anche con le mascherine messe male. Noi invece dal forno bollente che cuoce a 450 gradi sigilliamo, confezioniamo la pizza stesso dal fornaio nostro, dai nostri fornai, e viene spedita direttamente a casa attraverso questi fattorini delle grandi compagnie di distribuzione. Che differenza c'è tra noi e il fornaio? Non è che vogliamo criticare le altre categorie, perché a noi ci sembra brutto, anzi abbiamo anche appoggiato il pugno duro di De Luca, perché conoscendo bene la leggerezza con cui i napoletani spesso affrontano le cose, ha pensato bene di darci una stessa, di essere tra virgolette più severo, però dobbiamo un attimo respirare, perché ci sono questi fitti da pagare. Rimandare i fitti non è una soluzione, cioè, dovrebbero essere congelati e poi ricontrattati per i prossimi mesi, perché quando ritorneremo, sì, alla normalità non faremo il lavoro di prima. Allora un locale con 200 posti a sedere, 300, che può fare massimo 40 o 50 persone al giorno, non può pagare un fitto, e questo è un altro tema che purtroppo nessuno tocca ancora. Sì, nessuno tocca nella grande incertezza. Dei proprietari di casa, lo sapete bene, potete immaginarlo. Come no, ma infatti siamo a dire da giorni che c'è l'incertezza, non si sa quando riaprono le scuole, quando riaprono le aziende, sì, quando figurarsi l'incertezza di quello che saranno le difficoltà economiche. Però io chiederei tanto con la solita gentilezza e ragionevolezza che abbiamo di poterci un attimino risedere, diciamo nuovamente confrontare, perché così non possiamo continuare, perché poi le persone che vanno ai supermercati comunque affollano, cioè scendono negli ascensori, scendono per le scale condominiali, negli androni dei palazzi, nei cortili condominiali, si mettono in fila fuori ai supermercati, ma anche dentro, e questi supermercati, certo, sono spesso delle gallerie di microbi, di batteri, voglio dire, perché non si può garantire al 100% l'aria pulita o sicura. Le persone spesso entrano senza guanti, senza mascherine, magari con una sciarpa messa male davanti alla bocca, e toccano in continuazione i prodotti che spesso non vengono neanche comprati. Poi se vanno a reparto frutta e verdure, ancora peggio, toccano, ritoccano, voglio dire, non sono così sicuri questi supermercati, così come anche i carrelli della spesa vengono subito prontamente utilizzati appena vengono riposti fuori da altre persone che stanno in coda. Quindi voglio dire, il pasto caldo completo consegnato a casa eviterebbe a tante persone di scendere con una scusa, una continuazione, adesso il pacco di pasta, adesso il pomodoro, perché chi è che controlla questa cosa? Potete immaginarlo? Nessuno. Quindi una persona, certo, può scendere anche 10 volte al giorno a comprare basta che si mette in fila da qualche parte. Io so di persone che vanno a fare la fila per perdere tempo. A un piatto caldo a casa dobbiamo dire di no. Non si può fare. No, ma io credo che ci sia assolutamente buon senso in questa richiesta di Gino Sorbillo, che ringraziamo ancora, insomma, e poi quando Manera riuscirà a fare una pizza senza mettere chili di agente lievitante, chiamiamolo così, ti comunque faremo sapere. Sì, adesso i problemi economici cominciano a venire a galla in modo anche prepotente, no? Quindi come, bisognerà in qualche modo, con o senza task force, trovare qualche soluzione. Sì, c'è Enrico che ci chiama da Arezzo. Buongiorno Enrico. Buongiorno, sono il dottor Borgogni, scusate, ho detto il cognome, sono Enrico. Sono medico chirurgo e faccio il dentista. In questi periodi che sono a casa ho studiato molto determinate problematiche riguardo alla sanificazione degli ambienti e a tutto quello. Voi stavate parlando stamani mattina riguardo alla scuola, alla ripresa delle lezioni, che è importante. Sì. La distanza da un metro dentro una stanza chiusa non ha senso, perché dentro una stanza chiusa, come un'aula scolastica dove ci sono 15, 20, 30 bambini, 10, 5, non ha importanza il numero, se qualcuno è positivo l'aria si satura di coronavirus e quindi si deposita poi dappertutto, e questo è un problema di sanificazione. Allora la sanificazione va fatta prima di entrare dentro la scuola, e magari ci vorrebbero dei presidi tipo il grembiolino di una volta, il monouso, l'insegnante uguale, insomma ci vogliono tutta una serie di presidi che ora è difficile qui in pochi secondi illustrare, ma sicuramente nessuno ne sta parlando. Quindi io mi sono posto il problema, visto che dentro il mio ambulatorio dovrò sanificare l'aria, l'ambiente e compagnia bella, quindi mi sono posto il problema di gli ultravioletti, l'ozono, le macchine che sanificano, cioè tutti quei presidi che ci sono già, certo, normalmente. La sanificazione dei vestiti, ad esempio, se voi andate in lavanderia, le lavanderie hanno l'ozono, hanno delle armadi dove non si può mettere le cose a lavare dentro le lavatrici, se lei deve sanificare le scarpe dentro, dentro un armadio dove c'è l'ozono, queste si sanificano. No, ma è chiaro, Enrico, guardi, si fermi qui perché come sente sta partendo la sigla, siamo in fase di chiusura. Ci sono tante problematiche. Come al solito, caro Leonardo, abbiamo dato tante domande e non abbiamo neanche oggi dato mezza risposta, nemmeno il cruciverba di Beniamino. Siamo un disastro, io mi sento veramente inutile, mortificato, abbattuto. Ha ragione l'ascoltatore di prima, sono inutile, dannoso. Potrebbe essere un buon titolo per il programma, nessuna risposta. Così, risposte zero. Almeno danne una tu. Apri la finestra e concludiamo come al solito la puntata col tuo grido di speranza. Voglio un caffè del bar. Uno, nessuno.